Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, buon pomeriggio, sono le 16.34, Nova Lab, la voce dell'innovazione, Luca Tremolada, Sandro Mangiatera, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di una storia che parte dagli elicotteri, passa per le lavatrici e arriva agli imballaggi. L'ha trovata Sandro Mangiatera andando non lontano, a Gallarate, in provincia di Varese. Esattamente, e sai, il settore degli imballaggi è un settore che dove l'innovazione non esiste da 30 anni, 40 anni, certo. No? L'imballaggio è quella cosa lì. E invece abbiamo trovato un'azienda che ha innovato gli imballaggi ed è tutto tranne che banale. Allora, noi adesso però prima diamo le news e poi ricordiamo che ci collegheremo a Barcellona con Enrico Pagliarini che ci farà il punto sui nuovissimi telefonini. Ora le news. Per l'industria della musica italiana una nota positiva c'è, ma soltanto una. Il mercato della musica online è cresciuto del 27% nel 2009. Lo sostiene un rapporto presentato dalla FIMI Confindustria in occasione del Festival di Sanremo. Soffre il CD, in discesa da 9 anni. L'anno scorso il calo è stato del 19%. Complessivamente il mercato italiano ha fatturato 144 milioni di euro contro i 178 milioni del 2008. Le vendite di CD e DVD musicali hanno perso ancora il 24%. Novità nel campo della fotonica. Ricercatori canadesi dell'Università di Calgary sono riusciti ad allineare l'uno sull'altro le particelle della luce, i fotoni, come fossero microscopici Lego da comporre in diverse forme e architetture. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Photonics, secondo gli esperti apre una nuova era nella tecnologia dell'informazione quantistica per comunicazioni e calcoli più veloci. Google ha donato 2 milioni di dollari alla fondazione Wikimedia, l'organizzazione che gestisce l'enciclopedia online Wikipedia. A darne notizia è un tweet pubblicato dal fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, e dal membro del consiglio di amministrazione della Wikimedia Foundation, Mitch Kapor. Garantire una velocità di navigazione minima è la proposta della Federal Communication Commission americana. Ieri è stato rivelato un piano che potrebbe richiedere ai provider di internet di offrire entro il 2020 connessioni con una velocità minima. La proposta è stata però definita irrealistica da alcune società di telecomunicazioni. La Federal Communication Commission vuole che i provider offrano una velocità minima di 100 megabit al secondo a 100 milioni di abitazioni nel giro di un decennio da ora. Sarebbe bello. Allora, il signore che abbiamo qui si chiama Massimo De Santis, è presidente della FreePackNet e in sostanzialmente loro che cosa si sono inventati? Il primo imballaggio pieghevole e riutilizzabile. Forma di valigetta. A forma di valigia. Un imballaggio per lavatrice a forma di valigetta. Cioè, non si butta. Cioè, questo è un po' il dato forte, no? Come non è nata? Non si butta via niente. No, come è nata questa... Ma questa idea, innanzitutto buonasera a tutti. Questa idea è nata un po' di anni fa, quando ancora mi occupavo di elettrodomestici bianchi presso un grosso produttore leader mondiale nella produzione di elettrodomestici. Non può dirlo, cioè, sì, di Whirlpool. Whirlpool. Il più grande, quindi, il più grande. Dove nell'ambito di uno degli ultimi meeting ai quali ebbi l'opportunità di partecipare si parlava di supply chain, quindi di distribuzione degli elettrodomestici nell'ambito della logistica distributiva e di protezione del prodotto. Quindi lì a guardare l'elettrodomestico a un certo punto l'idea è stata ok, ma l'imballaggio che fine tutta fa? Tutta sta roba che fine fa? Ahimè, una scoperta amara. Innanzitutto c'era la Commissione Europea che cominciava a spada tratta a portare avanti i temi legati al protocollo di Kyoto e quindi al fatto che bisognava risparmiare nell'ambito dell'impatto ambientale. Diceva ai produttori di ogni tipologia di bene che era bene aggregarsi insieme anche senza l'ausilio della Commissione stessa o dei governi al fine di poter risolvere il tema ambientale. E scoperta più amara di tutte che nell'ambito della catena distributiva, proprio perché il packaging non era considerato core business per il produttore di elettrodomestici e quindi non si investiva più di tanto in quella tecnologia, sostanzialmente a seguito del fatto che il packaging a perdere non proteggeva i prodotti andavano a distruggersi nell'ambito delle operazioni di movimentazione e trasporto, ecco, fino a... Voi che cosa avete pensato, visto che bisognava, c'è il protocollo di Kyoto, bisogna risparmiare, dobbiamo metterci assieme, tutto viene buttato. E quindi cosa avete inventato? Il vostro guscio, ci spieghi allora come è fatto questo vostro imballo a forma di valigetta? Ecco, è semplice. In modo molto semplice. È un imballo innanzitutto strutturale. È composto da una base, un cappello e quattro angolari portanti che sono in grado di portare dei carichi per conto loro. Ergo, avete avuto modo di ricevere un elettrodomestico a casa vostra, ve lo consegnano con un imballo che oggi è fatto di polistirolo più del film termoretraibile. Quello che dovete sapere è che la lavastoviglie che avete a casa è stata progettata per resistere ai carichi verticali dell'impilamento nei magazzini e viene progettata fino a 1200 kg di carico, e anche quando viene movimentata con dei carrelli che hanno delle pinze, delle ganasce che prendono questi prodotti lateralmente e ne movimentano con degli imballi con grande quantità e schiacciano questi prodotti con 1200 kg, quindi con una tonnellata e 200 kg. Questo vuol dire che la lavastoviglie, giusto per fare l'esempio di questo prodotto che abbiamo a casa, è stata progettata e sviluppata per resistere a delle prestazioni tecniche che noi come consumatori, certo, non sfruttiamo. Noi non mettiamola, facciamo al mettere massimo la... ci mettiamo una pianta. Quindi voi avete pianta fatto sopra. Quindi De Santis, voi avete fatto un guscio rigido esterno. Sì, scomponibile, che è in grado di proteggere il prodotto da questa tipologia di carichi. Quindi la lavastoviglie finalmente. Ma quanto risparmia l'azienda a mettere il guscio? Perché di solito cos'è? È un plasticone, si prende, si toglie, si butta. Risparmia parecchio. Le do questo elemento. Noi noleggiamo questi gusci ai produttori a un costo che è leggermente inferiore al costo di acquisto dell'imballaggio a perdere. Li noleggiamo nel senso che noleggiamo il packaging alla fabbrica. Cioè, per cui è da in affitto? Sì, la fabbrica imballa. La fabbrica imballa i suoi prodotti, li manda nel mercato attraverso le catene della distribuzione, e quando l'imballaggio arriva dal cliente finale si piega attraverso, a forma di valigetta, attraverso gli installatori che installano il prodotto, chiudono l'imballaggio che si richiude nelle dimensioni di una piccola valigetta e gli installatori riportano il packaging al punto di vendita, e noi con la nostra catena di reverse logistics abbiamo seguito naturalmente il percorso, perfetto, dell'imballaggio fino al cliente finale. Andiamo a riprendere gli imballaggi, li portiamo in centri di logistica, e quindi dove li puliamo. Questo imballaggio pieghevole, cioè, si può utilizzare 20 volte. Si può utilizzare, nella realtà si può utilizzare. Ma diamo due numeri su tutto questo, esatto, baradana, che non è semplice. Sì. Sentiamo la scheda. Quanto delicato fosse il problema dell'imballaggio, Massimo De Santis, 50 anni ingegnere, lo aveva capito nel lungo periodo in cui è stato dirigente della Whirlpool. Nel 2005 l'idea di mettersi in proprio e di fondare a Gallarate, in provincia di Varese, la FreePackNet. 5 milioni di fatturato, una decina di dipendenti. Obiettivo, lanciare una nuova concezione di packaging per il trasporto degli elettrodomestici. Detto, fatto. La FreePackNet ha appena messo a punto il primo imballaggio pieghevole e riutilizzabile. Si tratta di un guscio rigido ma scomponibile, al cui interno vengono introdotti elementi in polipropilene espanso, adattabili alle diverse geometrie del prodotto. Una volta utilizzato, il guscio si ripiega, a forma di valigetta, in modo da essere riutilizzato fino a 20 volte. Per le case produttrici è un bel risparmio sui costi della logistica, ma soprattutto niente più materiale destinato in discarica. Niente più materiale destinato. Perché questo è il problema centrale, Luca. Tutti gli imballi, adesso se ci si fa mente locale è chiaro, no? Tutti gli imballi finiscono in discarica. Certo. Sono tutti a perdere e lo smaltimento è a carico del consumatore, cioè di chi compra la lavastoviglie, c'ha il polistirolo, queste cose qua, e li deve mandare in discarica e quindi paga il comune. Certo, è il sindaco. La municipalità che paga per lo smaltimento di questi imballaggi a perdere, e nella realtà, se un'indagine leggermente più approfondita vi dirà che è molto difficile smaltire per esempio il polistirolo, in quanto quando si va a bruciare il polistirolo si genera diossina. Quindi... Ma la cosa importante è che nessuno sa, e neanch'io sapevo fino a quando non mi sono un po' informato, è che gli imballaggi rappresentano il 50% dei rifiuti solidi urbani. In Europa si fanno 90 milioni di elettrodomestici, si producono 90 milioni di elettrodomestici ogni anno. Sono 60 milioni di tonnellate di imballaggi. E questi 60 milioni sono il 50% del totale dei rifiuti solidi urbani. Cioè è un impatto ambientale di dimensioni sì, dal punto di vista enormi. Energetico io sono completamente d'accordo, però ci sono dei dati che sono ancora più sconvolgenti, che sono relativi alla percentuale di danneggiamenti che avvengono nel mercato a seguito del fatto che l'imballo a perdere non protegge gli elettrodomestici. Sui 90 milioni di elettrodomestici che vengono prodotti tutti gli anni in Europa, ben il 5% di questi elettrodomestici vengono a danneggiarsi perché okay. L'imballo non protegge abbastanza. Quindi vuol dire che 4 milioni e mezzo di pezzi in Europa si danneggiano. Vuol dire che ci sono in Europa potenzialmente 4 fabbriche che lavorano tutti gli anni per produrre dei pezzi danneggiati. Ma pensate di portare l'idea anche su qualcosa che non sia l'elettrodomestico? Non conviene? Sì, assolutamente. L'auto. Stiamo già lavorando sul tema della... Sì, sul tema dei televisori a schermo piatto. Si ingigantiscono da Varese verso il mondo. Nova Lab 24. Tornati in trasmissione, Enrico Pagliarini, vediamo se c'è, non c'è ancora, quindi torniamo in studio. Solo una domanda, adesso quali sono le prossime mosse? Avete inventato il guscio per l'imballaggio e tutto quanto? Lo affittate alle imprese, lo ridistribuite, lo riutilizzate. Perfetto. Però abbiamo... il mondo è pieno di imballaggi lo stesso. Certo, perché ci vorrebbero 100.000 free pagnet per ogni continente. Nella realtà per adesso siamo da soli e stiamo cercando delle alleanze a livello mondiale negli Stati Uniti, nell'America Latina e anche in Asia. E ci stiamo riuscendo perché ci sono dei grandi gruppi nell'ambito della grande distribuzione, così pure come nell'industria, che sono intenzionati a seguire questo percorso. In bocca al lupo. Noi andiamo a Barcellona, dove c'è Enrico Pagliarini, a seguire il GSM Forum. Buongiorno. Buongiorno. Com'è andata? Abbiamo letto un po' quello che avete scritto, voi inviati, insomma, pochi cellulari e molte novità sul fronte delle piattaforme, dei sistemi operativi, dei negozi alla Apple Store. Sta cambiando qualche cosa? Beh sì, direi che questa edizione del World Mobile Congress, che ormai da qualche anno si tiene a Barcellona, conferma la tendenza, insomma, che descriviamo tutte le settimane, cioè che sta diventando più importante il software rispetto all'hardware. Adesso in questo momento, tra l'altro, mi a proposito di software, sono nel App Planet, App Super Applications, quindi il pianeta delle applicazioni, una sorta di vespaio, potremmo dire, con tanti piccoli stand, anche tanti operatori che girano, magari molti produttori di applicazioni che non hanno uno stand perché sono piccolini, ma si propongono in questo mercato che sta letteralmente esplodendo. Comunque, a proposito di software, diciamo che gli annunci più importanti sono stati fatti nei primi giorni a proposito di sistemi operativi. Potremmo quasi dire che quasi tutti stanno facendo il proprio sistema operativo. I primi sono stati quelli di Samsung. Domenica sera hanno preceduto un po' tutti, hanno presentato un Enrico, qual è la cosa che ti ha colpito di più? Ma direi che se parliamo di software è difficile dirlo, perché il numero di cose presentate è molto molto elevato. Se parliamo di hardware, potrei dire che sicuramente uno dei telefoni che è stato presentato, perché comunque di telefoni, anche se pochi, forse poco squillanti come abbiamo visto gli anni scorsi, ne sono stati presentati, direi che il nuovo Super AMOLED, che è lo schermo di un telefono presentato da Samsung, è veramente fantastico. Interessante. Va bene, ricordiamo che insomma parlerai di questi argomenti sabato alle 16. Esattamente. E noi parleremo di questi argomenti anche domani sul numero nuovo di Nova 24 che esce in edicola, Alessia Maccaferri. Insomma, non facciamo solo Barcellona, però. No, non facciamo solo Barcellona, certamente presentiamo tutte le novità, ma soprattutto facciamo un ragionamento sul fenomeno, è molto collegato al discorso del software e delle application, che è quello dei social network. Sì, facciamo un ragionamento appunto che parte dalle applicazioni, passa dall'editoria, passa sui social network. Insomma, la notizia qual è? Che un po' tutti gli attori di internet si stanno costruendo il loro piccolo social network in casa. Perché? Perché proviamo a spiegare ricordarlo in questa copertina, e proviamo a suggerire una possibile evoluzione, che forse come nelle grandi tempeste perfette succedono delle cose, poi c'è un grande caotico movimento di attori e poi emergono nuove applicazioni. Quando emergono queste nuove applicazioni cambia tutto. Diciamo solo questo. Sì, diciamo solo questo. Altre cose carine sul numero? Auto, parliamo di auto dopo il caso Toyota, c'è molto da ragionare. Mm-hmm. E parliamo ancora della ricerca, i nuovi modelli di ricerca, certo. E il futuro, dove, in che direzione si sta andando nell'ambito della ricerca. Voi fate ricerca, Fer? Sì, noi facciamo molta Avete ricerca. Una ricerca, mi rivolgo abbiamo al capo della FreePacNet. Abbiamo un centro di eccellenza che è unico al mondo, perché riesce ad integrare la parte industriale con la parte logistica, la parte ambientale e la parte costi, per tirar fuori alla fine un prodotto che viene noleggiato ad un costo inferiore rispetto al costo di acquisto del quale perdere. Ma lei che sa progettava elicotteri? Ho provato a mettere un rotore principale, un rotore di coda ai frigoriferi, non ci sono riuscito, no, e sono finito lì. Negli imballaggi per questo motivo. Okay. Ma magari ci ritorna meglio l'imballaggio. Ma sa, l'imballaggio è un qualche cosa che le consente di stare nelle reti di reverse logistics, nelle reti di logistica distributiva a livello mondiale. E credo che la sfida del terzo millennio per l'uomo e i suoi valori sia quella di stare nell'ambito della logistica, che riesce a connettere Shanghai con Varese, Varese certo. con New York e quant'altro. Va bene, in bocca al lupo a Massimo. È un social network anche la logistica. Anche lui, personalmente un social network. Allora, io ringrazio Massimo De Santi, ringrazio Alessia Maccaferri, Sandro Mangiaterra, che lo ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie. Noi ci troviamo domani alle 16:30.